come centro di documentazione. Ormai sono anni che costruiamo dei momenti comunicativi, di informazione e di narrazione dalla parte dei movimenti rispetto a episodi legati alle lotte sociali e ai movimenti sociali di decenni passati. Il centro di documentazione ha il suo punto di forza sulla raccolta e sull'archivio legato all'esperienza degli anni 70, soprattutto del 77, ma tutta una parte che sta sviluppando negli ultimi anni e si sta allargando, legata diciamo alle lotte del movimento No Global dal 2000 in avanti. E proprio per il 20° anniversario di Genova contro il G8 del prossimo anno, tutta la parte riguardante l'archivio del movimento No Global di Genova sta per essere acquisita quasi completamente. In questo ambito, i 20 anni del movimento Nox di Bologna per noi sono un passaggio importante, nel senso che quell'iniziativa è stata in qualche modo la apripista al movimento di Genova, anche nelle caratteristiche, naturalmente con proporzioni diverse, però la modalità con cui si è arrivato appunto alla contestazione del vertice dell'Ocse, alla realizzazione di un controvertice e alla giornata clou del blocco del 14 giugno hanno anticipato un po' una modalità che poi si è vista nel 2001 a Genova contro il G8. Nell'iniziativa di venerdì ci sarà la possibilità di vedere anche materiale dell'epoca? Direi di sì, nel senso che stiamo predisponendo dal punto di vista tecnico tutte le opportunità necessarie per poter far vedere il maggior numero di cose. Abbiamo comunque moltissime foto, abbiamo recuperato dei video, ci sono articoli di giornale, poi ci sono tutti i numeri speciali fatti in quel periodo dall'aprile 2000 fino al 25 giugno del 2000 da Zero in Condotta, che era all'epoca un settimanale cartaceo e che diventò il giornale ufficiale appunto del movimento in quei giorni. Ci fu anche proprio un'esperienza dal 12 al 15 di giugno, esperienza di quotidiano cartaceo che venne distribuito appunto nelle file dei partecipanti al controvertice. Poi questa iniziativa non si concluderà il 12, c'è alla base la volontà di continuare quando sarà possibile anche con modalità diverse questa narrazione. Probabilmente lavoreremo da qui a luglio del 2001 per parlare poi anche di Genova, lavoreremo una pubblicazione su come il movimento bolognese insomma arrivò a quella scadenza con tutte le varie tappe, perché l'altra cosa importante è finito il NOX, approvata la controcarta di Bologna per i diritti universali contro la carta dell'OX che dava una serie di indicazioni a come le piccole e medie aziende si dovevano rapportare alla globalizzazione neoliberista pensando ai propri interessi, ai propri utili e non ai diritti dei lavoratori. Ecco, in quest'ambito va detto che finita questo tipo di esperienza, conclusasi con le giornate di giugno, iniziò quasi subito dopo l'esperienza del Bologna Social Forum, che è un po' la continuazione di quel tipo di iniziativa nata ad aprile del 2000 e che portò in piazza dopo tanto tempo migliaia di persone, perché nel percorso preparatorio ci fu la giornata contro Forza Nuova del 13 maggio, 10.000 ragazzi che andarono in piazza per contestare una manifestazione europea che Forza Nuova aveva indetto nella nostra città. Nello stesso periodo ci fu la settimana delle alternative lanciata e promossa dalle Mon Diplomatique con la collaborazione di una serie di realtà bolognesi, tra cui l'archivio Marco Pezzi, Zero in Condotta, l'associazione Punto Rosso, e che portò in città temi che erano esplosi nella fine del mese di novembre del 1999 a Seattle, portò alla luce questo movimento che diventerà un movimento globale di critica radicale ai processi di globalizzazione, con un ragionamento completamente rivoltato che riguardava la globalizzazione dei diritti, si diceva allora, e che aveva come punti centrali il reddito di cittadinanza. Pensate, cioè già allora si parlava di questo obiettivo necessario per dare risposte ai processi di precarietà che cominciavano a emergere con forza, alle forme di lavoro precario, alle forme di lavoro a tempo determinato, al lavoro in affitto, al lavoro part-time, che cominciavano ad essere utilizzate nei sistemi produttivi. L'altra questione che si lanciò con forza era l'OCSE, attraverso questo vertice, vuole lanciare la libera circolazione delle merci e dei capitali. Noi siamo per la libera circolazione delle persone, perché contemporaneamente unitamente appunto alla libera circolazione di merci e capitali, si creavano le condizioni dell'Europa fortezza, dell'Europa di Schengen, appunto dei primi tentativi di respingimento nei confronti dei migranti. Temi attualissimi, in un certo senso anche premonitori. Un'altra caratteristica che poi contraddistinse quel movimento globale era la capacità di tenere insieme anime anche molto diverse. Secondo te com'era possibile? Era possibile perché per la prima volta si sperimentava un lavoro in rete che non era mai stato fatto. Prima c'erano i coordinamenti politici tra i vari gruppi, si costruiva invece una forma attraverso l'assemblea settimanale che si teneva nell'ex cinema ambasciatori, una forma di discussione dove ognuno portava il proprio contributo, dove non contavano i pacchetti tra virgolette di voti delle organizzazioni, ma contavano i contenuti, contava la volontà di fare delle cose insieme ad altri, tenendo conto, rispettando le sensibilità diverse. Non a caso anche in quella giornata ci furono almeno 3, se non 4 momenti, parlo della giornata del 14 di giugno, in cui queste modalità accerchiarono in vari punti della città queste sensibilità diverse, trovarono in modo di collaborare, di costruire dei momenti comuni, anche perché poi in tutti i giorni precedenti, sia nelle azioni di strada, parlo dei carrelli della spesa che diventarono un simbolo di quelle giornate insieme ai caschetti antinfortunio degli operai, per lanciare essenzialmente due discorsi: che uno, i nostri corpi non sono in vendita attraverso questa forma simbolica dell'utilizzo dei carrelli della spesa, dall'altra il tema della sicurezza sui posti di lavoro. Siamo proprio negli anni in cui il numero di morti sul lavoro è ai massimi livelli, tema ancora di tragica attualità ai giorni nostri, fino ai sit-in, alle forme più strane anche, cioè ci fu anche un gruppo che decise di usare il proprio corpo nudo come elemento di protesta, dicendo state facendo una campagna che ci descrive come violenti, guardate come siamo messi, siamo completamente nudi. E anche quel tipo d'azione creò abbastanza scompiglio in una realtà normalizzata dal punto di vista dei contenuti delle iniziative di lotta. C'era il fatto che di fronte a una città completamente blindata, con 3.000 poliziotti che erano schierati attorno ai palazzi dell'Ocse, dall'altra parte c'era tutta l'ipocrisia dei massimi esponenti del governo di centrosinistra, di Giuliano Amato che era presidente di consiglio, o di Letta che era il ministro dell'industria, che dicevano noi siamo a sostenere gli stessi contenuti dei manifestanti, però abbiamo una modalità diversa, quando però la cosa più elementare che saltava agli occhi era il fatto che si discuteva di piccole e medie industrie nell'era della globalizzazione, ma non c'era un rappresentante dei lavoratori invitato.